con l'autore, regista, attore Ulderico Pesce per parlare del suo spettacolo Petrolio, storie dalla Lucania Saudita, a Roma, al Teatro India, dal 9 al 13 gennaio 2019. Ulderico, ben trovato. Ciao caro, ciao Federico, ciao amici e compagni. Tutto bene? Certamente, a notte, vita buona, salutare, nella periferia si sta bene, caro Federico. Allora, avevo avuto modo di vedere una parte di questo spettacolo che allora era ancora inserito in uno spettacolo collettivo al Teatro Argentina e adesso invece ha assunto vita propria, si è sviluppato in spettacolo vero e proprio. All'Argentina, a settembre dell'anno scorso, mettemmo in scena Il ritratto di una nazione con molti attori del teatro di Roma, da quel micro dramma che durava 30 minuti, l'ho sviluppato un po', ecco, ora dura 60 minuti, ma sempre quella è più o meno la storia. E allora raccontiamola brevemente a chi ci ascolta. La storia del petrolio. Il petrolio in Italia ha fatto molti morti e li fa ancora, nell'indifferenza di tutti, non solo in Italia. Il racconto prende spunto dalla mia terra, che è la Basilicata, dove si estraggono 90.000 barili di petrolio al giorno e l'ENI estrae questo petrolio, ma a leggere i dati delle indagini epidemiologiche, l'ENI c'è la multinazionale che saccheggia il nostro territorio senza lasciare nulla, ci uccide. Pensate che tra Viggiano e Grumentonova, che sono il cuore dell'estrazione petrolifera, dove c'è il giacimento petrolifero più grande dell'Europa continentale, in questi due paesi la mortalità per malattie del cuore è aumentata del 63% nelle donne in 4 anni, gli ultimi 4 anni, dal 2014-2018, e del 41% negli uomini negli ultimi 4 anni. La mortalità per ischemia dell'80%, le malattie delle vie respiratorie del 131%, cioè è una vera e propria strage che si consuma nell'indifferenza di tutti. Questi sono i dati del CNR di Pisa, diretto dal dottor Bianchi. Contestualmente però non si parla solo della mia terra, della Basilicata, e di questo operaio che racconta la vita sua all'interno del COVA, cioè del centro di Viggiano, e del rapporto con sua figlia che è ammalata di cancro. La storia realmente accaduta, perché questo operaio è un mio amico, ma si racconta di tutte le sciagure del petrolio in Italia e anche fuori. Anche a Roma si accenna di una raffineria di petrolio nel cuore di Roma, chiusa da pochi anni, a Malagrotta, nel cuore di Roma, dove non vi siete fatti mancare nulla, dai surroni ai rifiuti fino a una bella raffineria di petrolio sempre dell'Agip dell'Eni, chiusa nel 2012-2013, ma che ha gettato nei cieli di Roma H2S, idrogeno solforato, a tutta birra. E se venite a vedere lo spettacolo al Teatro India, vi rendete conto di che cos'è l'H2S, di che cos'è l'idrogeno solforato, di che gravità è l'idrogeno solforato e quantitativi di idrogeno solforato si possono bruciare in Italia rispetto ad altri paesi del mondo, quale Danimarca, Australia, Stati Uniti, eccetera. Ma anche i pozzi di Novara, a Trecate è scoppiato un pozzo petrolifero, ma anche alle morti per petrolio di Pasolini. Pasolini è morto per il petrolio, e l'ultimo periodo della sua vita sta scrivendo petrolio. Petrolio parla della morte di Mattei e della sostituzione di Cefis, dell'appoggio della destra della Democrazia Cristiana, e soprattutto in quel testo di Pasolini si parla di un capitolo intitolato Lampi sull'Emi, e questo capitolo non c'è, è scomparso. Addirittura Pasolini, negli ultimi capitoli, dice, come ho già riferito nel capitolo Lampi sull'Emi, ma Lampi sull'Emi non c'è solo un capitolo nell'indice generale, e Marcello Dell'Utri, che è un senatore della nostra Repubblica, sarebbe un senatore della nostra Repubblica di Forza Italia, ha dichiarato qualche tempo fa che questo capitolo l'ha trovato lui su un mercatino dell'usato e lo conserva gelosamente. Non è detto che sia vero. Non è detto che sia vero, può essere pure che sia un segnale di Marcello Dell'Utri quando è stato condannato a dire attenzione, perché con questa informazione che ti do, che ho il capitolo mancante del libro di Pasolini, magari posso dire altro. Sono fatto stacchi, so a testa che in Italia ci sono dei poteri forti, massificati, strutturati, che gestiscono l'Italia come meglio credono. Noi che ci continuiamo a discutere di vivere in una democrazia elettiva, parlamentare, eccetera. E poi si parla appunto della morte di Enrico Mattei, ucciso pure lui nel 1962. Enrico Mattei era un partigiano democristiano, d'accordo, ma pur sempre un partigiano che ha contribuito a cacciare i nazisti e i fascisti dalla nostra Repubblica, quando la Repubblica era più o meno seria, ma che doveva ancora invadenza degli Stati Uniti, non era così eclatante, si stava organizzando. E dunque Enrico Mattei era il capo dell'AGI e poi dell'ENI, che cadde l'aereo nel 1962, lo portava in Alta Italia, cadde, la magistratura chiuse l'inchiesta e dopo 50 anni il giudice ha fatto analizzare la fedina matrimoniale al dito di Enrico Mattei. Nel momento in cui è caduto l'aereo hanno riscontrato tracce consistenti di polvere da sparo, ciò significa che dopo 50 anni l'Italia ha scoperto che Enrico Mattei è stato ucciso, e quell'aereo che cadde non fu un incidente causato da un temporale, quindi un altro morto per il petrolio. E poi parlo di un morto africano che mi è molto molto caro, ed è un poeta che si chiama Kensaru Iwa. Kensaru Iwa è un poeta del delta del Niger che si è opposto alle perforazioni della Shell e dell'ENI ed è stato ucciso assieme ad altre 8 persone, fucilato. Lui aveva fondato il movimento del popolo Ogoni per combattere contro le multinazionali ed è stato ucciso, barbaramente fucilato. Poi la Shell è stata sotto processo perché è indagata di aver pagato le persone che poi uccisero Kensaru Iwa, e la Shell ha pagato 11 milioni di euro e ha riconosciuto la colpa e insomma, il processo è finito. Insomma, questo è il plot narrativo di Petrolio, che va in scena al Teatro India di Roma dal 9 al 13 di questo mese. Ulderico, dopo Roma dove lo porterai? Dopo Roma siamo nel momento in per chiudere delle relazioni e dei rapporti, Toscana, ovviamente a Milano, al Teatro Menotti, a Rovigo, in Basilicata in lungo e in largo, è inutile dirlo, in Puglia, in Sicilia, insomma si sta. Chiunque vuole ascoltare Petrolio, vuole questo spettacolo fatto con un bidone, con una Madonna nera dentro, perché pensate, ironia della sorte, che in questo luogo si venera, noi lucani veneriamo una Madonna che è nera, totalmente nera, come il petrolio che è sottoterra. E nera la portarono i monaci bizantini dall'Oriente, una figura orientale che noi veneriamo, ed è nera, ed è nera, ed è esattamente quello che è sotto il suolo. Insomma, chi viene a vedere questo lavoro, anzi, chi lo vuole promuovere, mi appello anche perché io sono un po' fuori dalle logiche del teatro tradizionale, nel senso che sì, vado nei teatri come il Teatro India eccetera, però vengo pure nelle case, basta avere un salone poco poco consistente, porto il mio barile di petrolio vuoto ovviamente, con una Madonna nera dentro, e racconto questa storia che riguarda la storia della mia terra e di persone molto deboli che non contano niente, o persone che contavano molto e che volevano raccontare la verità e alle quali è stata tappata la bocca. Per seguire le varie tappe c'è il tuo sito internet e la pagina Facebook? Sì, c'è il sito internet che è www.ulterico-pesce.it, c'è la pagina ufficiale di Ulterico Pesce, Facebook. Anzi, mi appello a tutti voi, poiché pensate, siamo 10.000 km quadrati, la Campania è 13.000 km quadrati, è poco più grande di noi, però la Campania fa 6 milioni e mezzo di abitanti e noi in Basilicata 500.000, cioè San Lorenzo, va, per capirci, in un'estensione però di 10.000 km quadrati. Siamo 50 persone a chilometro quadrato, in alcune aree della Basilicata sono 9 persone a chilometro quadrato, quindi la nostra difficoltà è metterci assieme, uscire dalle logiche clientelari dell'acquisto e nel contempo far conoscere i nostri problemi per risolverli. E allora mi appello a chi di voi oggi sta ascoltando e al di là del teatro, che per me conta solo se è utile, perché se non è utile arte fino a se stessa è finita per l'epoca. Se è utile, e allora mi appello a tutti voi a promuoverlo se volete, non è un problema economico, è un problema di rispetto della mia terra e della gente con cui sono cresciuto. Quindi chi di voi vuole mi può trovare il mio telefono sul sito, su Facebook o quant'altro, chiamarmi e voglio promuovere questo lavoro in lungo e in largo, anche a rimborso spesa, proprio per la finalità di far conoscere attraverso il teatro una verità brutale che condanna centinaia di migliaia di persone. E allora ricordiamo lo spettacolo Petrolio, storie dalla Lucania Saudita, a Roma al Teatro India dal 9 al 13 gennaio. Un saluto e un ringraziamento a Ulterico Pesce. Ulterico, un abbraccio, un in bocca al lupo e ci vediamo a teatro. Ok, un bacio grande. Ciao. Permettimi, poiché ho vissuto a San Lorenzo per molti anni e la radio è ancora via dei Rossi. Però ho vissuto in via di Costa Lappigiana al 6 e non posso non salutare tutti, il barbiere Pino, gli amici di San Lorenzo che in questo momento sono all'ascolto, cioè i negozi dove andavo a fare la spesa. Un abbraccio forte, ciao. Ciao Derico.